Cosa dice? Vediamo se capisce. Allora, se tutti gli ascoltatori possono scaricare questa cosa, rifiltrarsela con le robe tipo CSI che fanno ho capito, il vecchio amministratore delegato, basta fare giù col nastro. Allora, anche voi indovinate esattamente che cosa dice questa voce elettronica che vi faccio sentire adesso. Dai. No, vabbè, ma è una lingua straniera, sembra lituano. Ada duta vuscas, scupas. Cosa dice? Valva vulva, non si capisce. Vabbè. Comunque, bentornati, chiedo asilo. Ma la sigla. Un saluto da capo, è vero, questa era la presigla. Manda la sigla. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago. Martedì. Sì, martedì, però non riattaccare tutta la pippa su Plutone, eccetera, eccetera. Plutone. Plutone, sì, il pianeta negletto, quello che sta negletto. Così tanto alla larga dal Sole che dopo un po' di anni gli scienziati hanno deciso di retrocederlo ad asteroide. Suora! Cosa c'è? Drago dice delle cose strane. Ma no, vabbè. Sente male. Ma che mi sento male? Il martedì come luogo o momento più lontano dal centro focale del venerdì, dico bene? Dici bene. Ecco, vuoi riattaccare? Farci tutta la menata su quanto è triste il martedì. Potrei dirtelo alla Aznavour. Grande Aznavour, Come triste Venezia. Aznavour. Aznavour come cosa? Triste Venezia. Però dico Aznavour. Guarda, Shanur Vaginag Aznavourian, detto Charles Aznavour, anzi Shaz Aznavour. Shaz, Shaz Parmentier. È uno dei Charles cantanti. Uno dei cantanti. Aznavour. Ecco, Shaz Aznavour. No, Charles, vedi che lo sai dire. Faccio la liaison. Non bisogna dirla la S. Perché? Charles Aznavour. Ecco, Charles Aznavour è uno dei cantanti viventi più famosi del mondo. Ecco. Ho risolto il tuo dubbio, era quello il dubbio. Okay. Te lo dico come direbbe Aznavour. Ok, come direbbe veramente. Come triste martedì. Ma cos'è na na na? Vabbè, ma è Aznavour, no? Con dei grandi ha fatto carriera. C'è questo comunicato da Palazzo Chigi che dice no, dice delle altre cose. Vuoi leggerlo tu, capo? Volentierissimo. Allora, dai. Presidenza ma no, in italiano. Okay, che viene dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutta la puntata. No, invece no. Facciamo dopo. Va bene. Allora, presidenza del Consiglio dei Ministri, 3 aprile 2012. Oggetto, appello ai bambini italiani. Virgolette. Ognuno ha avuto le sue razioni, poveri e ricchi, cattivi e buoni. Ognuno ha fatto le sue preghiere. Ora si tratta solo di aspettare. Bravi, su. Bravi, ragazzi. Ma non è il caso di agitarsi. Bravi, su. Fate i bravi, ragazzi. Vedrete che poi sistemeremo tutto. firmato Mario Monti, presidente del Consiglio dei Ministri. Siamo molto rassicurati da queste parole del premier. Bravi. Però sai che non mi sono nuove queste parole. Mi sai che nemmeno a me. Il comunicato però è di lì, il Consiglio dei Ministri 3 aprile 2012. L'avevo già sentito in qualche canzone, non ma lo so. Ma perché fanno come i presidenti americani, no? Monti fa come i presidenti americani che, non so, citano Bob Dylan nel discorso, altri cantanti. Capito, certo. Cioè Clinton e Obama, perché i due Bush potevano al massimo citare, non so, Linda Ronstadt. Chi? Niente. I'm in Texas, I'm a cowgirl, I fuck with cows because I'm a cowgirl. I'm in Texas, I'm full of oil, I'm full of cows, I'm full of dollars, but I'm in Texas, so I'm a cow. Ti piace Linda Ronstadt? Linda Ronstadt, bravissima. Grazie. Vabbè, loro hanno Bob Dylan, Bruce Springsteen. E noi invece abbiamo chi? Scrivetecelo a chiedosilo@radio24.it. Break, Bryce, Russ. Radio moderna, Drago, insomma. Break, Bryce, Brugs. Va bene. Vabbè. Comunque, queste parole di Monti ci sto ancora pensando. In che senso? Non so proprio. Cioè, mi piacerebbe sapere da dove vengono fuori. Però non voglio usare Google perché sennò è troppo facile. È troppo facile. Certo. Ormai è troppo lì, facile. Prova. Se tu fai. Ognuno ha avuto le sue razioni. Ecco cosa c'è scritto. Edoardo Bennato, bravi ragazzi. E vedi, così si rovinano i quiz. E occhio, però, ai quiz che basta Google per dare la risposta. Perché porta male. Ne studieremo di difficilissimi per i nostri ascoltatori. Sì, ma niente difficile per un motore di ricerca. No, tu basta che scrivi. Se fossimo in Cina, ad esempio, sarebbe tutto più semplice per noi e tutto più difficile per chi deve indovinare. Perché là sui motori di ricerca non puoi cercare tipo l'80% delle parole esistenti in tutte le lingue del mondo. Cioè, in pratica, finché cerchi popolo, rivoluzione, socialismo, fratellanza, lavoro, lavoro nero, merce contraffatta, involtini primavera, parole così. Tutto okay. Appena cerchi qualcosa che non è puro folklore della Cina popolare, si blocca tutto. Cioè, se avessi cercato la canzone di Bennato su un motore di ricerca cinese, non l'avresti trovata. Vabbè, ma è facile. Obblighiamo i nostri ascoltatori a usare Panguso. Tito, ma dai, non lo sai. Panguso è il motore di ricerca ufficiale del Partito Comunista Cinese. Panguso. Ovviamente è il motore di ricerca meno efficace del pianeta. Come? Perché, cioè, la Cina? Perché ha così tante parole bannate, no? Che alla fine è utile quanto, non so, una vecchia enciclopedia Sonzogno in tre volumi a ferro, ferro pino, pino ZZ. Tito, vabbè, comunque allora è venuta un'ideona a questo punto, no? Avete sentito bene? D'ora in poi la pagina iniziale del vostro browser sarà www.panguso.com. Panguso. Così i nostri quiz diventeranno immediatamente difficilissimi e noi avremo una carriera florida. Esatto, e poi Chiedo Asilo sarà l'unico programma che usa Panguso. Potrete anche vantarvi con i vostri amici. Ma come, usi ancora Google? Ma sei proprio uno sfigato, devi usare Panguso. Anche Aznavour, sai? Lo usa. Usa Panguso. Sì, sì, lì, per scrivere i testi delle sue canzoni. Fai e su Panguso li trova, perché sono ideogrammi cinesi. C'è il ideogramma del na. Chissà il na cosa vuol dire. Poi ripetuto na in cinese. Senti Aznavour, senti. Come triste, come triste, come triste, come triste, come triste, come triste, come triste, come triste, come triste, come triste. Buon martedì a tutti, ci risentiamo domani. Si cercano parole che nessuno dirà. E si vorrebbe piangere, non si può più, può più, può più, può più.